che si scioglie ad ogni ricordo triste. Sono una sognatrice, vivo per l'emozione, è un pretesto, sai, reale, brucia marzo di passione. Sulla luna, sopra un albero di cera che si sciogliono.